Antonio, voto Antonio, voto Antonio, italiani! Voto Antonio, come la rete cambia la politica, di Simone Spezia. Una buona giornata, gentili ascoltatori, e bentornati a Voto Antonio, la trasmissione nella quale cerchiamo di raccontarvi ogni settimana che cosa cambia nella politica grazie alla rete, anche come voi potete cambiare la politica con la rete. Questa settimana ci occuperemo di un incrocio tra, come si dice, old media e new media. Parleremo di televisione e di internet e parleremo di vecchi spot elettorali. Vi faremo sentire delle cose meravigliose. Come sempre, iniziamo da qualche notizia in breve. Qualche curiosità, come sempre in questa fase, iniziamo dal Partito Popolare Europeo che sul suo profilo Flickr, il sistema di caricamento e condivisione delle foto, ha pubblicato nel pomeriggio di giovedì 114 foto dell'incontro, quello nel quale, e poi ne parleremo più avanti, i vertici del partito hanno incoronato Mario Monti. Ebbene, nessuna foto di Silvio Berlusconi, almeno fino a sera, quando evidentemente, pensando che la scortesia fosse troppa, francamente anche vero, hanno deciso di aggiungerlo. Trovato su un blog che è una miniera, quello di nonleggerlo.blogspot.it. Tra l'altro sul PDL ce n'è una che è veramente stupenda. Segnalava su Twitter Fabio Chiusi ieri sera: il sito delle primarie del PDL è ancora raggiungibile, con tanto di regolamento e di moduli da scaricare. Si dovrebbe votare domani, ma insomma, se volete proprio cercare un gazebo. Vi abbiamo parlato molto nelle settimane scorse dell'analisi fatta da Voices from the Blogs, progetto dell'Università Statale di Milano che ha sostanzialmente previsto il risultato delle primarie analizzando i social network, in particolare Twitter. Un sistema che si basa su un algoritmo con una preselezione manuale di una serie di tweet. Ecco, ci sono anche altri metodi e i risultati sembrano dire che questa direzione potrebbe promettere bene. Giovanni Bocciartieri, docente di sociologia dei new media dell'Università di Urbino, coordinatore nazionale del progetto SNS Italia, Social Network Studies, che cosa avete fatto e come la vedete? Allora, noi abbiamo cercato di analizzare in chiave predittiva i risultati delle primarie, concentrandoci sui tre principali candidati che erano Matteo Renzi, Nichi Vendola e Pierluigi Bersani, e l'idea era di lavorare in chiave automatizzata su Facebook e su Twitter. Abbiamo cercato di, diciamo, correggere il dato cercando un valore di tipo esterno che funzionasse da correttivo, che erano i sondaggi elettorali. E abbiamo fatto diversi tentativi raccogliendo, grazie alla collaborazione con Blogmeter, per i tre principali candidati, tutte le principali metriche. Alla fine, diciamo, quelle che funzionano meglio in questo tipo di analisi sono Facebook People Talking About e le Twitter Mentions. Quindi l'idea era di misurare sui social network se era possibile capire le intenzioni di voto fondamentalmente dei cittadini. E mi sembra, di capire dai dati che ci siete riusciti meglio dei sondaggi, anche voi. Sì, diciamo che da questo punto di vista unire Facebook e Twitter piuttosto che concentrarci su uno solo, anche in chiave automatizzata, è possibile. Diciamo che Vendola fondamentalmente è stato colto praticamente in pieno, lo scostamento maggiore c'era su Bersani perché avremmo avuto bisogno di più tempo per costruire un modello più complesso, che è la direzione verso cui stiamo andando. Cioè, la nostra idea principale è appunto che non sono sufficienti i social network per capire fondamentalmente gli andamenti e anche leggere e interpretare la rete. Ma ha un futuro tutto questo, però, perché forse adesso non funziona, anche perché le presenze sui social network, in particolare su Twitter, degli italiani non sono molto fitte, non sono così fitte, insomma, il numero di utenti Facebook è molto alto, però insomma non è detto, e poi la popolazione delle primarie è più ristretta rispetto a quella delle elezioni nazionali, no? Sì, assolutamente sì, è così, diciamo che cresce, cioè il principale errore che viene fatto in questi tipi di analisi molto spesso è di considerare che lì all'interno esista una rappresentazione campionaria della popolazione italiana. È per questo che, come dire, che tutto va equilibrato rispetto all'ambiente internet, portando dentro anche elementi esterni. Quindi in chiave futura un modello più complesso deve tener conto sia di questa dimensione predittiva che di una dimensione che tenga conto degli elementi new che sono presenti in rete, che portano all'interno il dibattito esterno, e anche tutta la sentimental analysis che è possibile fare. L'idea però è appunto di lavorare in chiave più automatizzata su grandi mole di dati della vostra biblioteca. Grazie, grazie a Giovanni Bocciartieri, docente di sociologia dei New Media dell'Università di Urbino, che tra l'altro stiamo perdendo al telefono e quindi lo salutiamo. Noi adesso ci fermiamo per un attimo. Io vi ricordo come sempre i nostri contatti, vota Antonio R24 è l'account Twitter, Simone Spetia è il mio, c'è anche la nostra pagina Facebook, trovate tutto quanto anche sul sito internet di Radio 24, compresi i link delle cose alle quali parliamo, www.radio24.it. Settimana molto intensa, come sapete, dal lato politico, con questo continuo avanti e indietro di Silvio Berlusconi, strategia se c'è ancora non l'abbiamo capita, e soprattutto un fatto politico assolutamente inedito, ossia quello che è successo nella riunione del Partito Popolare Europeo. Di tutto questo, come sempre, parliamo con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buona giornata. Ciao Simone, ciao. Allora, inedito veramente quello che è successo nella riunione del Partito Popolare Europeo, con i leader del Partito Popolare Europeo che di fatto incoronano Monti e gli chiedono di candidarsi di nuovo alla premiership. C'è chi, tra l'altro, naturalmente, forse non completamente a torto, ci vede un po' di ingerenza negli affari italiani. Tu come la pensi? Ma l'ingerenza c'è. Ma voglio dire, siamo in un'Europa in cui tutto si intreccia, è un po', diciamo, anacronistico immaginare che si faccia le politiche nazionali come 30-40 anni fa. Oggi ognuno ha il diritto di sapere che cosa fa il vicino e quindi anche di ingerirsi in quello che fa il vicino. Quindi questa questione mi sembra un po' troppo antiquata rispetto alla grosso ritmo assunto dalle vicende europee e dalla necessità di dare delle risposte integrate, perché ognuno, ripeto, ha il diritto di sapere qual è la strada che sta assumendo il vicino. Anche perché il suo destino dipende dal vicino, quindi è inevitabile. Esattamente. Quindi è inevitabile. Senti Stefano, si dice fatto politico comunque assolutamente inedito e Partito Popolare Europeo che sembra essere un partito per una volta, tra l'altro. Esatto, hai detto una cosa molto giusta. Per la prima volta il Partito Popolare Europeo, molto di più dei socialisti europei, che sono divisi, che sono un po' indietro rispetto a questo, esprime il Partito Popolare un tentativo di avere una forza omogenea in una serie importante di paesi europei e di essere capace, come dire, di creare delle sezioni nazionali di un partito che però ha un suo cuore pulsante e una sua armonia che è sovranazionale. Quindi in qualche modo è stato chiesto a Monti di rappresentare in Italia la sezione italiana del Partito Popolare Europeo. E questo anche perché si è creato un vuoto, un grosso vuoto, perché prima c'era il PDL che aderiva ai popolari europei, come peraltro anche il partito di Casini, però il vuoto che si è creato con la fine, diciamo, anche drammatica della gestione Berlusconi e della stagione di Berlusconi, determina la necessità per i popolari europei di evitare che l'Italia sia, diciamo, condizionata da questo vuoto politico che si è aperto al centro, e quindi c'è questo tentativo di colmarlo con Monti. Io so già, perché succede sempre nelle nostre trasmissioni, che ogni volta che si parla di Berlusconi ci si divide, iniziano ad arrivare messaggi, insomma, gente che ci scrive, insomma, siete dei terribili anti-berlusconiani, però insomma, fateci lavorare di pura analisi. Come si diceva prima, nel profilo Flickr ufficiale del Parlamento del Partito Popolare Europeo, fino a sera tardi non sono state messe foto di Berlusconi, cioè 114 foto dell'incontro e non c'era una foto di Berlusconi. Insomma, Stefano, l'idea che la liberazione dal cavaliere sia stata vissuta con un certo sollievo all'interno del Partito Popolare Europeo si è percepita abbastanza chiaramente, ora senza, no? Ma Berlusconi nei giorni scorsi aveva tentato una forzatura, no? In chiave, diciamo, pure anti-europea, lui lo smentisce, ma insomma questa forzatura ha incontrato la ostilità netta, diciamo il muro dell'Europa. ma di tutta l'Europa, non soltanto dei popolari, ma in questo caso anche di Hollande, che è un socialista, di tutti i mondi che si riconoscono in Europa. E quelli gli hanno detto che lui non poteva proseguire a occupare la scena pubblica su questa base. E allora lui, con una giravolta, ha detto: va bene, mi ritiro se c'è Monti in campo. È una giravolta a 180 gradi. Se dovesse essere confermata, c'è la dimostrazione che a Bruxelles ieri abbiamo assistito a un passaggio di mano. Non è più Berlusconi il referente italiano, sia pure anomalo, sia pure contestato già da tempo in Europa, ma insomma il referente di un certo popolarismo, ma è Monti che incarna quello spazio e anche quei valori in un modo molto più coerente, molto più accettabile per i nostri interlocutori e i nostri amici europei. Restando ancora sul tema, poi cambierei anche un attimo argomento. Ci scrive un ascoltatore: sono un ex elettore del PDL, questo rientro di Berlusconi in campo. Ci scrive proprio così, insomma, quindi ripeto, non ne facciamo una questione politica, ma è quello che ci ha scritto, ci dà il vomito. Ora, l'impressione è che tutto questo avanti e indietro del cavaliere, mi candido, non mi candido, se si candida Monti non mi candido io e forse potrei candidare premier anche Alfano, sia dovuto anche al fatto che ha provato a rientrare in campo ma si è reso conto che i sondaggi non è che apprezzassero un granché, insomma. È quello che ho detto, lui si è trovato completamente esposto, gli europei gli hanno detto di no, l'America gli ha detto di no, la Chiesa gli ha detto di no, i sondaggi erano deludenti e allora lui sostanzialmente si è ritirato cercando di negoziare qualcosa durante la ritirata. E naturalmente io penso che se Monti dovesse assumere questo profilo politico e quindi presentarsi alla contesa elettorale, dovrà farlo in una sostanziale discontinuità con Berlusconi, a costo di ricevere delle critiche da una frangia del PDL. Ma lui dovrà marcare fortemente il profilo europeo della sua politica contro anche certe incarnazioni della politica berlusconiana che peraltro l'Europa ha rigettato, e quindi io penso che non si può pensare a una continuità tra Berlusconi e Monti come vorrebbe lo stesso Berlusconi, ma bisogna immaginare che questo Partito Popolare Europeo possa prendere forma in Italia su un terreno diverso. Abbiamo detto che è stata una settimana molto fitta dal punto di vista politico, anche per l'annuncio da parte del Partito Democratico di voler fare le primarie per i parlamentari. È un bel modo di aggirare il porcellum alla fine, Stefano? Diciamo che essersi tenuti il porcellum per una responsabilità che è condivisa, perché anche il centro-sinistra alla fine lo voleva, impone di mettere su un po' questo piccolo teatro di Capodanno per dare l'impressione all'opinione pubblica che comunque non è la segreteria che sceglie i candidati. Teatro di Capodanno è fantastico. È un po', insomma, è una cosa così, insomma, che lascia un po' il tempo che trova. Insomma, le primarie vere sono state quelle Bersani contro Renzi, ed è stata una pagina positiva della politica. Queste sono un modo per aggirare le critiche di essersi tenuti il porcellum. Detto ciò, la polarizzazione adesso sembra essere Berlusconi-Monti. Io non so quanto durerà, però il PD lo vedo un po', al momento almeno, per carità, poi mancano 2 mesi al voto, però sono un po' fuori dai giochi. Il Partito Democratico è preoccupato di quello che sta succedendo, perché avrebbe preferito, era comodo, avere Berlusconi come avversario, no? Perché si sarebbe potuto fare un bel fronte unito contro la minaccia del ritorno dell'avversario di sempre. Invece con Monti è tutto diverso. Monti, come emissario dell'Europa, pone il Partito Democratico su una posizione più scomoda, lo spinge a sinistra naturalmente, no? Proprio quello che Bersani non vuole, infatti è per questo che Bersani sta cercando di dire che lui vorrebbe aprire al centro dopo le elezioni. Però diciamo, quello che sta succedendo determina uno slittamento degli equilibri e degli scenari politici. Infine, Stefano, ti vorrei coinvolgere, in questo caso forse sembra un po' di sparare sulla Croce Rossa veramente, però sul tema di Beppe Grillo, insomma, questo re dell'iperdemocrazia, così l'aveva chiamata in un'intervista a 7 sul Corriere della Sera, intervistato da Gian Antonio Stella, ha detto vogliamo imporre questa iperdemocrazia che però caccia a pedate chi dissente dalla linea. Io ho l'impressione che tutto questo a lui in realtà faccia tutt'altro che bene, cioè una cosa che funzionava probabilmente bene nel partito del Cavaliere, ma che da quelle parti non funziona. Guarda, sicuramente non gli fa bene, sicuramente la paga in termini di consensi, infatti c'è un lieve ma marcato calo delle percentuali attribuite nei sondaggi al Movimento 5 Stelle. Naturalmente tutto questo viene sfruttato dagli avversari di Grillo, che ci mancherebbe altro, che sono già in campagna elettorale e che hanno bisogno di contenere l'espansione del grillismo. Detto questo, io penso che il voto a Grillo non è tanto o soltanto, diciamo, un voto di adesione al pensiero politico di Grillo, che francamente è assai discutibile e poi non si sa esattamente cosa sia, diciamo. È un voto che viene dato contro qualcun altro, contro i partiti tradizionali, contro le crisi economiche, tutti coloro che hanno un malessere vanno a depositare la scheda per Grillo. Quindi questo prescinde un po' da quello che Grillo dice o quello che Grillo fa, e quindi anche da quest'ultima brutta pagina che tu hai richiamato. Ripeto, gli fa perdere un po' di consensi, forse gliene farà perdere ancora di più nelle prossime settimane, però il fenomeno Movimento 5 Stelle continuerà a esistere, proprio perché è una sorta di buca delle lettere in cui tutti coloro che hanno motivi di risentimento mettono la loro lettera, il loro messaggio a un sistema politico che non funziona. Grazie anche per questa settimana a Stefano Folli. Ciao Stefano, buona giornata. Ciao. Io vi ricordo che se volete scrivere, se avete domande per Stefano Folli, è il.@radio24.it, oppure potete sfruttare i mezzi di comunicazione relativi a Voto Antonio, come per esempio la nostra pagina Facebook, se volete. Noi ci risentiamo tra poco. Abbiamo parlato molto di Berlusconi. Rieccolo! Questo è stato l'hashtag che è circolato su Twitter. Faremo l'analisi. Dunque, tanto ne abbiamo parlato con Stefano Folli poco fa di questo ritorno in scena di Silvio Berlusconi. Abbiamo detto l'hashtag circolato su Twitter era Rieccolo. E poi naturalmente c'è il nome di Silvio Berlusconi. Su questo siamo andati a scavare questa settimana. Riccardo Puglisi, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Benvenuto Riccardo. Dunque, sì, che cosa avete fatto, insomma, con la tua società che si occupa proprio, appunto, di per la sua parte che si occupa di analisi su Twitter, che cosa avete trovato soprattutto? Ci siamo concentrati sul nome di Berlusconi perché questo avrebbe sicuramente incluso anche tutto questo rieccolo come hashtag. Ci sono dei numeri importanti perché, per esempio, nella giornata di lunedì ci sono all'incirca 12.000 tweet che nominano Berlusconi. Il giorno dopo 10.000, il giorno successivo, cioè mercoledì, ce ne sono 11.000, poi calano un po' giovedì. Quindi sono numeri importanti su tweet italiani. Noi ci siamo concentrati sui tweet italiani. Ecco, questo è un punto interessante perché abbiamo visto le prime pagine dei quotidiani esteri, abbiamo visto quanto se ne è scritto sui giornali esteri di questo ritorno di Berlusconi. Naturalmente tutto questo ha avuto un eco anche sui tweet non in italiano, in inglese, che sono addirittura molti di più, sono multipli di quelli italiani. Esatto. Se uno va a vedere per le stesse giornate i tweet mondiali, quindi senza limitarsi a quelli italiani, trova numeri che sono praticamente 5-6 volte tanto, quindi arriva a 50.000, 40.000, 60.000 tweet. Quindi chiaramente questo è solo un quinto o un sesto sono i tweet italiani. Quindi abbiamo le notizie, per esempio, lanciate da CNN oppure da altri siti di notizie che vengono rilanciati tantissimo e mostrano come l'evento abbia una portata globale e quindi evidentemente si può anche capire l'aspetto finanziario della cosa, cioè l'effetto che c'è stato poi sugli spread, come abbiamo discusso la settimana scorsa. Naturalmente poi bisogna starci attenti se l'effetto sia stato di Berlusconi o più che altro dell'incertezza, insomma, che circola in merito alle vicende politiche italiane. Non soffermiamoci su questo. Adesso però andiamo, come sempre, Riccardo, perché a noi interessano tanto i numeri, perché ci aiutano a dare un quadro iniziale, un quadro generale, un quadro di contesto, per così dire. Ma quello che ci interessa davvero è l'aspetto qualitativo, ossia che cosa c'è dentro questi tweet. Allora, dentro questi tweet c'è sicuramente dei retweet, cioè nel senso che c'è questa questione per cui quando c'è la notizia si dialoga di meno, ancora meno, si arriva a avere solo il 5-7% di dialogo, quindi il messaggio viene mandato, il commento viene rimandato, c'è questo collegamento con le vicende politiche e questo collegamento con le vicende finanziarie. In particolare questo accade lunedì c'è le parole che compaiono di più sono parole come il ritorno, il collegamento con Monti avviene spesso e tra le parole più utilizzate praticamente nel 5% dei tweet c'è la parola spread o spread con hashtag, quindi questo collegamento evidentemente bisognerebbe fare delle analisi statistiche più raffinate, però questo collegamento con i fatti finanziari del lunedì c'è sicuramente stato e infatti si vedono questo tipo di parole, ci sono anche, traspare dall'elenco delle parole più utilizzate, c'è anche il gusto della battuta, si vede la battuta sul tema, vi sono per esempio alcune battute sul ritorno dei Maia, per cui in realtà non è che ci sarebbe tanto da preoccuparsi per il ritorno dei Maia, perché come si dice, perché comunque è successa questa cosa di Berlusconi. E poi dal punto di vista numerico qualitativo noto questo, i messaggi più retweetati sono messaggi di giornalisti televisivi e della stampa, quindi sono Mentana e Mauro che commentano, e l'effetto che noto è che in questo caso cominciano a esserci messaggi che vengono retweetati almeno 1000 volte, cosa che per esempio precedentemente vedevo meno, quindi devo dire che c'è questo effetto per cui le dimensioni dei retweet non saranno a livelli americani ma sono sicuramente a livelli, hanno superato il migliaio, vedremo sempre di più secondo me questo fenomeno dei retweet superiore al migliaio, questo perché probabilmente il mezzo sta diventando più, come si dice, mainstream, quindi sta entrando piano piano più all'americana, in maniera più possente, no? all'interno anche del dibattito. E poi probabilmente anche perché insomma il personaggio Silvio Berlusconi interessa e divide particolarmente. Bene, grazie anche per questa settimana al nostro Riccardo Puglisi. Riccardo, insomma, buona giornata, ci risentiamo sabato prossimo. Perfetto. Naturalmente, che ha elaborato questi dati con R2M Solutions, che è la società della quale è socio. Grazie Riccardo, buona giornata. Grazie. Noi adesso passiamo dalla nuova comunicazione politica alla vecchia comunicazione politica e cerchiamo di incrociare le cose. Pago le tasse, certo, e tuttavia siccome pago, quando andrò in pensione già fin da adesso voglio in garanzia l'alloggio e non a stalla del bestiame, le cure giuste e il vitto per campè. E no la fila per morire di fame. Io credo che mi spetti di diritto e ripropongo le stesse cose per le quali combatte e lotta a pro dei pensionati Pietro Longo. Vabbè. Vota Partito Socialista Democratico. Va bene. È uno degli spot elettorali. Una raccolta meravigliosa. Edoardo Novelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Una raccolta meravigliosa, l'archivio spot elettorali che trovate su internet, curato appunto da Edoardo Novelli, sociologo dei processi culturali, insegna all'Università di Roma 3. E saluto anche Marco Cacciotto, consulente politico, docente di marketing politico e public affairs alla Statale di Milano. Cacciotto, buonasera. Buonasera. E con loro vogliamo parlare di messaggi politici. Come sapete, ce ne occupiamo sempre direttamente o di striscio in questa trasmissione, parlando di social media, di rete e di politica. Vogliamo provare, nello scarso tempo che abbiamo a disposizione, a cercare di connettere i vecchi media con i nuovi media, il medium per eccellenza, ossia la televisione, lo spot elettorale, il medium che ancora domina in realtà la scena della propaganda politica, e i nuovi media, come vengono utilizzati, come si stanno innestando in tutto questo. Prima però voglio sapere da Edoardo Novelli come è nata quest'idea di questo archivio. Ma nasce dal fatto che questo archivio, che si chiama archivispotpolitici.it, nasce dal fatto che io per lezioni e nei corsi che facevo all'università avevo nel tempo raccolto gli spot, perché sono un documento eccezionale di come la politica si è trasformata, di come la politica è cambiata, si è passati da una politica che gli spot nascono a metà degli anni, fine degli anni 70, diciamo, con gli spot televisivi, ed è una politica che si basava principalmente su dei partiti, sulla parola, su un ragionamento logico, e improvvisamente arrivò lo spot che costrinse la politica a trasformarsi man mano, divenne predominante il leader, perché ovviamente serviva una faccia, serviva una personalizzazione, divenne obbligatorio stringere il discorso, perché insomma, si passava da minuti e minuti a disposizione a 30-45 secondi, e lì quindi ovviamente anche il ragionamento dovette essere semplificato, le emozioni si scoprì che funzionavano molto di più che non appunto ragionamenti logici e parole. Quindi da un lato c'era questo patrimonio storico di documentazione dell'Italia, della comunicazione politica, della pubblicità, che però non era raccolto, non era neanche identificato, insomma c'erano... Se io sapevo che c'era in giro per l'Italia qualcun altro, qualche archivio, e quindi grazie a un finanziamento del Ministero della Ricerca con un PRIN a Roma 3 abbiamo fatto questa raccolta per studiarli, per capire che oggetto erano, che cosa ci raccontavano. E una volta fatto questo censimento e restaurati molti di questi, abbiamo scoperto che ne avevamo messi insieme più di 450, e quindi abbiamo fatto questo sito pubblico perché tutti possano andare a vederli, leggerli, soprattutto li abbiamo cercato di contestualizzarli, ovvio, cioè di fargli la storia e dare dei percorsi di ricerca. Io ve lo dico subito, vi ci perderete. Voglio una casa! Tradito l'equo canone, tagliati i crediti alle cooperative di abitazione, supertassata la piccola proprietà, 3 milioni e mezzo di contratti in scadenza, 100.000 sfratti esecutivi. L'ADC ha fallito. L'alternativa c'è. Vota Partito Comunista Italiano. Ed eccone un altro. Poi andremo da Marco Cacciotto. Novelli, io le chiedo... Intanto, se riesce a essere il più sintetico possibile, perché poi abbiamo la pausa per la viabilità, di aiutarci a connettere questo con questo nuovo mondo della comunicazione che stiamo affrontando. Poi ci ritorniamo, perché sarà il tema dei 10 minuti finali della trasmissione. È un cambiamento profondo, nel senso che adesso uno strumento come lo spot, che era pensato nei tempi lunghi dai partiti, si fissava una comunicazione che sarebbe principalmente rimasta la stessa nel corso di una campagna elettorale, perché questo aveva dei costi, aveva dei tempi di programmazione. Adesso la rete ha scardinato tutto questo, l'ha scardinato da due punti di vista: uno, perché molto spesso adesso sono gli utenti o comunque dei soggetti esterni, non più i partiti, sono i gruppi creativi, sono il terzo segreto di satira, sono Sora Cesira, sono i militanti di base che fanno gli spot e li mettono in rete, e li mettono a una velocità che ogni giorno praticamente avviene qualcosa. Quindi gli spot e la comunicazione politica, quando ancora i politici li fanno, hanno comunque dovuto adottare i linguaggi principali della rete, cioè da un lato la satira, il grottesco, l'ironia, che è l'elemento determinante, e dall'altro l'aggressività, il negative, che sono due dei generi, appunto l'ironia, il grottesco e l'aggressività, che sono dominanti all'interno della comunicazione politica, soprattutto per immagini. Hanno disgregato l'Italia, anche se adesso dicono il contrario. Fermali finché sei in tempo. Nord, centro, sud. Realtà differenti, con problemi differenti. Solo uno Stato federale è in grado di dare le risposte vere al Paese. Con la Lega il Paese rinasce. E poi, tra l'altro, fa una certa impressione, no? Siamo al 1992, la Lega che manda un messaggio in realtà di unità nazionale. Marco Cacciotto, però vogliamo andare dall'altra parte dell'oceano e capire un attimo, visto che di recente è stato una riunione, da quel che ho capito, di Spin Doctor, insomma, proprio negli Stati Uniti, dove si è fatto un po' il punto anche su queste cose. Come si riescono a mettere insieme queste due cose, questi due tipi di messaggi che insomma un tempo erano così diversi e probabilmente adesso si stanno integrando? Beh, quello che sta accadendo è che il format dello spot si adatta benissimo alla rete, ai social network, perché comunque è uno strumento veloce, e in più il vantaggio della rete è che si possono targetizzare i messaggi, cosa che in televisione non era così semplice, soprattutto nella nostra storia, cioè quando ancora venivano utilizzati gli spot nazionali, si andava su un bersaglio grande, su un grande pubblico, mentre la rete ti permette anche di far vedere uno spot differente a 5 persone che si collegano alla stessa pagina. Quindi ciascuno vede uno spot personalizzato. E tra l'altro lasciandoti la possibilità, oltretutto, di farlo della lunghezza che vuoi, insomma. Cioè, se ne viene fuori un prodotto televisivo buono, nessuno ti nega la possibilità di farlo magari 3-4 minuti, no? Sì, potenzialmente sì, anche se poi quelli che devono colpire, diciamo, il grande pubblico tendenzialmente sono brevi, sono fatti su una lunghezza differente, anche se poi lo stesso spot, quello che abbiamo visto, nel 2012 ci sono spot prodotti solo per la rete e lo stesso spot viene prodotto in varie lunghezze, in modo che chi vuole si segue lo spot lungo. Addirittura c'era uno spot di Obama che duravano 7-8 minuti, ma c'era una versione da un minuto dello stesso spot. Quindi estrema personalizzazione dei messaggi e flessibilizzazione. Esatto. Brevissimamente, stato dell'arte in Italia. Ho l'impressione che il grado di arretratezza sia ancora piuttosto elevato, anche se qualche segnalino inizia a vedersi. Qualche segnale si vede, anche se più di produzione da terze parti è più giocato sull'ironia e sulla satira che su una strategia ben precisa di spot, di posizionamento da parte di candidati e di partiti. Probabilmente perché ancora non ha preso piede da noi, anche probabilmente per la lentezza in molte parti del paese, della rete, l'uso dei filmati. Ormai negli Stati Uniti il primo canale televisivo è diventato YouTube. Da noi c'è ancora tantissimi che lo vedono, però non si è arrivati a quei livelli di utilizzo e di fruizione dei video, che invece negli Stati Uniti è diventato elevatissimo. Sì, tra l'altro leggevo che c'è proprio una quota parte della popolazione ben analizzata dagli strateghi elettorali sia di Obama che di Romney, che nemmeno fa più uso della televisione e va solamente on demand, quindi un pubblico col quale insomma i politici dovranno fare i conti. Ogni anno in Italia 3.000 morti per droga, mafia, criminalità. 33.000 miliardi di tangenti ai partiti, milioni di giovani senza casa e disoccupati, il 60% del tuo guadagno in tasse. Anche in Italia c'è un muro da abbattere, è il muro dei partiti. Abbattiamolo insieme per costruire la nuova Repubblica. Per rinnovare ogni voto una picconata. Ecco qua, anche un Gianfranco Fini dannata. Chiedo ad Edoardo Novelli di chiudere con noi. Alla fine però, insomma, in questa fase, così come negli Stati Uniti, probabilmente è sempre il vecchio medium che vince, no? Sì, non c'è assolutamente, certamente. La rete si configura un po' come un luogo dove si esprimono alcuni opinion leader, dove comunque sicuramente può fare tendenza, può anche avere un ruolo centrale nel condizionare la trattazione giornalistica, cioè l'agenda dei media, anche perché i media sono molto presenti, per esempio su Twitter sono presentissimi giornalisti, quindi però ecco, poi l'elemento centrale è la grande televisione, però ovviamente la rete ha la possibilità, soprattutto quando fa proprio perché è così osservata, quando fa qualcosa di particolarmente innovativo, particolarmente originale, particolarmente visto, di giungere alla popolarità, di essere rimandata dai giornali, dalle televisioni, e quindi tutto questo finisce per essere ampiamente, cioè tornano centrali, tornano i mainstream, il ruolo centrale della televisione. L'impressione, faccia a faccia, l'impressione, professore, è che i politici in genere fatichino un po' ad affrontarlo perché è oggettivamente qualcosa di incontrollabile, no? Beh, la rete sì, non c'è, diciamo, un'esperienza in questo campo, non si sa bene come gestirlo. Adesso molti con le ultime primarie si è molto stato messo sotto osservazione l'uso che è stato fatto di Twitter, come sono stati seguiti i dibattiti dei candidati alle primarie. Quello è sicuramente un nuovo ambito, però riguarda elite particolarmente alfabetizzate da un punto di vista dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Il grande pubblico è ancora fondamentale, il telegiornale è ancora fondamentale, Che Tempo Che Fa, sono ancora i Ballarò, ecco, questi sono gli elementi, i luoghi che ancora, magari non proprio i Ballarò che sono i talk politici, ma una genere di popolarizzazione della politica, cioè il trattare la politica con un linguaggio popolare, con i linguaggi classici di genere di intrattenimento, ecco lì sono i posti dove comunque l'incontro principale tra la politica e i telespettatori avviene. Grazie ad Edoardo Novelli, sociologo dei processi culturali, insegna all'Università di Roma 3. Vi ricordiamo ancora una volta il sito è www.archivispotpolitici.it, che online e vi ci perderete. Grazie anche a Marco Cacciotto, consulente politico, docente di marketing politico e public affairs alla Statale di Milano. Io ringrazio come sempre tutti voi per l'ascolto. Vi ricordo i nostri contatti: abbiamo una pagina Facebook, Vota Antonio R24, l'account Twitter Vota Antonio R24, si chiama come la pagina Facebook, quindi non vi potete sbagliare. Il mio account Twitter, se volete, Simone Spetia. Grazie anche a Peter Bescapè in regia. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo sabato prossimo. E